Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico alla Panca Storie Filomena Sottile. Ciao Filo, buon pomeriggio. Ciao Adele, ciao a tutti, tutte e tutti. Grazie. Questo sabato presenterai a Bologna, al Centro della Pace, il tuo libro senza titolo di viaggio, Storie e canzoni dal margine dei generi. Prima di iniziare un po' l'intervista vera e propria sul libro, ti volevo chiedere, in presentazione ti ho chiamata Panca Storie, che tra l'altro è un titolo che compare spesso anche all'interno del tuo libro, che cosa significa? Significa che il mio modo di agire come narratrice insomma, fa riferimento a quel tipo di tradizione, no? Del cantastorie, della persona girovaga che raccoglie storie e le riporta in giro, però sono un po' panchettona, dico sempre che canto male e suono peggio, per cui unisco queste due tradizioni, insomma, che poi in qualche modo sono anche la stessa, o no? una tradizione stracciona di raccolta e diffusione di storie, questo più o meno. Il tuo libro racconta appunto di un viaggio, di storie e di canzoni. All'interno sono contenuti alcuni dei tuoi testi, alcune delle tue canzoni. Ti volevo chiedere come unisce all'interno del libro, che è anche molto politico, ci sono tematiche molto importanti, questa parte appunto più musicale e invece la parte più politica. Senza titolo di viaggio racconta, no? Vuole raccontare il viaggio delle persone trans in un territorio ostile. E come dice anche uno dei titoli degli atti in cui ho suddiviso il libro, mi sembrava che ci fosse anche qualcosa di epico in questa esperienza che fanno le persone trans nel vivere la loro vita in un territorio ostile, e per cui ho cercato delle forme comunicative, narrative, anche di riflessione, no? Che avessero a che fare con l'epica, per cui ci sono dentro fiabe, ci sono dentro storie, ci sono dentro canzoni e anche parti scritte in versi, no? Appunto per restituire a questo libro, che vuole avere, nasce perché abbia una dimensione politica, ma per restituirgli anche una parte narrativa nell'epica anche così intendeva Brecht, cioè un modo di raccontare politico e che ci permette di criticare e di vedere in maniera distaccata quello che stiamo vedendo, cioè quel coinvolgimento emotivo, però mostrando, no, quali sono tutte le contraddizioni in cui chi racconta è avviluppato. All'interno c'è anche una descrizione, diciamo, del tuo percorso artistico, parli del movimento Notav, delle tue prime esibizioni anche all'interno delle manifestazioni Notav e poi, diciamo, tutto un tuo percorso. Ti chiedo adesso, che è uscito questo libro, come va questo viaggio, che appunto è il tuo percorso artistico e quali altre tappe ti aspettano comunque all'interno della tua musica e delle tue storie. Vabbè, io con questo libro credo di aver in qualche modo chiuso un ciclo della mia esistenza e sono ancora così in una fase di confusione, aspettando, sicuramente se ne è già aperto un altro, solo che non riesco a capire dove vada. Si è chiuso un ciclo perché appunto, no, ho fatto i conti con il mio coming out, con il mio percorso di affermazioni di genere e anche, no, con come si è modificato il mio agire sul palco e con la scrittura nel momento in cui ho fatto coming out, per cui mi sono permessa di dire una serie di cose riguardo a me e anche una serie di cose riguardo, no, a come intendo insomma, il mio agire politico da attivista transfemminista. E quindi sì, sicuramente questo libro chiude un ciclo. In questo momento ho 7500 progetti per il futuro e mi piacerebbe tantissimo riprendere questo spettacolo che è stato un po' spazzato via dalla pandemia, che è il Decoro Illustrato, che è uno spettacolo sulle politiche del decoro e che prendeva le mosse dal libro di Voš Bukowski, La buona educazione degli oppressi, e che forse in questo momento, no, che va scemando il controllo, speriamo, possiamo renderci conto che una delle urgenze è quello che sta avvenendo nelle nostre città, appunto, il fatto che viene condotta la guerra di classe dall'alto verso il basso e che le persone povere, le persone marginalizzate vengono espulse sempre più spesso dalle città per fare spazio a gentrification e insomma, al profitto. A quello spettacolo ci tenevo molto, fortunatamente pare che stia ritornando la possibilità di farlo perché di nuovo c'è l'interesse. Mi è capitato la settimana scorsa a Cagliari, tra l'altro in uno spazio no, a Castello, nel centro, nel cuore di Cagliari, che si chiama Sadomo, questo spazio occupato, che sta per essere sgomberato, per diventare l'ennesimo studentato privato, no? Per cui quella è l'urgenza, è una delle urgenze, dei temi di cui parlare, perché lì si intersecano tutta una serie di questioni che riguardano anche la razza, il genere, la classe, è uno dei punti privilegiati a cui possiamo guardare per leggere quello che sta avvenendo nella nostra società in questo momento storico. Filo, io ti ringrazio, purtroppo con questa intervista chiaramente non potremo andare avanti con altre domande, ma invito invece tutte e tutti ad esserci questo sabato al Centro della Pace in cui potrà approfondire meglio tutte le tematiche all'interno del tuo libro e anche sentirti live. Sì, tra l'altro siamo due gran chiacchierone, io e Antonia, e saremo insieme, per cui minaccio di diventare una cosa lunghissima. Certo, va bene, io ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata. Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti voi.